2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti a 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Cerchiamo ogni settimana di raccontarvi come la tecnologia ci cambia la vita. Io sono Enrico Pagliarini, grazie a Filippa Ureggi che oggi si occupa della parte tecnica, Anita Panizza e Nadia Zammiti che ci aiutano in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi e soprattutto se volete ottenere una risposta, adesso non rispondiamo proprio a tutti, perché alcuni ci chiedono cose un po' complicate che richiederebbero pagine di email. Comunque 2024@radio24.it. ci potete trovare anche su Facebook e anche su Twitter. A proposito di Facebook, un nostro ascoltatore ci ha inviato una fotografia molto interessante che ha preso dalla Thailandia, una delle tigri asiatiche. Visto che parliamo spesso della necessità, dell'importanza per il sistema paese di avere connessioni ad internet veloci, attenzione, ha fatto Luca, questo ascoltatore che ci ha scritto via Facebook, allora ha fatto una fotografia ad una pubblicità di un servizio di True Online, un operatore di connettività Ultra High Speed Internet, introducing 200 megabits per second, the fastest internet service, 200 megabit al secondo, cosa che in Italia, ma mi risulta nemmeno in Europa, negli Stati Uniti c'è qualche servizio di questo tipo. Questa è una pubblicità scattata, una fotografia di una pubblicità scattata in Thailandia. Il mercato delle mappe è sempre in fermento perché le aziende a vario titolo coinvolte in questo business si preparano all'esplosione dei servizi e soprattutto della pubblicità geolocalizzata. Allora, questa settimana Nokia ha annunciato il cambio di denominazione della propria offerta di mappe. Prima si chiamavano Nokia Maps, adesso si chiama Here, quindi vuol dire qui. Hanno trovato anche il dominio libero here.net, si raggiunge anche da here.com, chissà quanto hanno pagato per ottenere questo dominio. Presto sarà disponibile anche una app sia per sistemi Android che iOS. Nokia, per consolidare la propria tecnologia, ha tra l'altro comprato poche settimane fa EarthMine, una società specializzata in fotografie 3D a livello stradale. Voci di corridoio dicono che Google avrebbe completato la propria app per iOS, che segnerebbe quindi un ritorno di Google Maps su sistemi Apple. L'applicazione, che dovrebbe avere anche un navigatore turn by turn, quindi un GPS con suggerimenti vocali, sarebbe in fase di test e nelle prossime settimane dovrebbe essere sottoposta alla valutazione dell'App Store. Altro segnale che arriva dal mondo delle mappe: TomTom ha lanciato una piattaforma che permetterà a tutti gli sviluppatori di accedere alle mappe, ai dati e alla geolocalizzazione, compresa la gestione del traffico. Quindi potranno nascere nuovi servizi o nuovi sistemi di navigazione basati sui dati di TomTom. Adesso cambiamo argomento. Nel terzo trimestre sono stati venduti nel mondo 428 milioni di telefonini, con un calo del 3% rispetto ad un anno fa. Quasi il 40% sono smartphone, un segmento molto ricco che cresce, pensate che in un anno è cresciuto del 47%. Questi sono dati aggiornati da Gartner per il mercato della telefonia mobile. Gartner ha anche esteso le previsioni al più vasto mercato dei cosiddetti smart devices, ovvero smartphone e tablet. Secondo la società di ricerche, l'aggregato di questi terminali dovrebbe raggiungere gli 821 milioni per superare poi il miliardo nel 2013. Carolina Milanesi, vicepresidente di Gartner, responsabile dell'area Consumer Electronics, collegata dalla California via Skype. Ma nei numeri che ci di tu sono praticamente la combinazione di tablet e di smartphone. Alcune aziende già parlavano di smart devices invece di chiamarli smartphone, e finiva lì la cosa, no? Avevi questo telefono che è diventato più intelligente. In realtà adesso la linea tra quello che è un tablet e quello che è un telefono diventa sempre più grigia, no? Non c'è questa demarcazione chiara tra il telefono e il tablet. Ci sono dei telefoni che adesso sono 5 pollici di schermo e hai tablet che sono 7 pollici. Dove finisce la linea? In realtà sono tutti nella testa del consumatore, nel modo di pensare del consumatore, sono tutti devices intelligenti che ti aiutano a fare quello che vuoi e scegli uno rispetto all'altro in base a o i compromessi che sei incline a fare o guardando alle applicazioni che ti interessano di più. Quindi, per esempio, se tu come cosa principale vuoi focalizzarti su browsing, ovviamente l'esperienza che tu avrai su un telefono a 4-7 pollici invece che un tablet a 7 pollici è diversa, e quindi sceglierai in base a questo criterio. In effetti, guardando al mercato e riprendendo quello che tu dicevi, il consumatore in questi ultimi anni, vedendo sugli scaffali dei negozi, sia che siano digitali oppure fisici, così tanti prodotti che stanno tutti su una linea di continuità, e già guardando le dimensioni dello schermo vediamo questa linea di continuità che si espande sempre di più, il consumatore, non so qual è il vostro punto di vista, ma mi sembra che sia sempre più confuso, ormai c'è una scelta incredibile. Non so se è confusione o libertà, nel senso che può essere confusione perché non hai queste linee demarcate chiaramente, ma nello stesso tempo secondo me ti libera un po', no? Come consumatore, come scelta, proprio perché ti punti più a quello che fa per te il device per se stesso che non una, se vuoi, un nome che gli è stato messo in precedenza. Guarda il telefono e guarda la comunicazione, come è cambiata la comunicazione negli anni, no? Ci sono i teenagers di adesso e anche i bambini, non soltanto i teenagers, per loro comunicazione è Facebook, per loro comunicazione è text messaging, non è prendere il telefono e effettivamente chiamare qualcuno con la voce, e anche se lo fai con la voce può essere VoIP invece che il telefono tradizionale, oppure è addirittura video calling invece della voce. Quindi è proprio secondo me un cambiamento nel modo in cui pensiamo e anche di cose tradizionali come appunto è la comunicazione. Bene, a questo punto diamo un'occhiata al mercato. Nel terzo trimestre dell'anno, secondo i vostri dati, sono stati venduti 428 milioni di terminali mobili intesi come telefonini, e all'interno c'è una percentuale di smartphone che è del quasi 40%, cresciuta di quasi il 50% rispetto allo scorso anno. Se guardiamo ai dati, alle performance delle aziende, vediamo che Samsung incrementa e consolida la posizione di numero uno nel mondo, Nokia arretra di un pochettino, è comunque il secondo produttore, e c'è, se consideriamo che ci sono ancora molti telefonini venduti, Nokia vende 82 milioni di pezzi, Samsung 97 milioni. Il terzo produttore è Apple con 23 milioni di pezzi, con una quota di mercato del 5,5%, poi seguono ZTE, LG, Huawei, TCL, che è un altro produttore cinese, RIM, Research in Motion, Motorola, HTC e poi tutti gli altri. Ma in generale che cosa possiamo dire sull'andamento del mercato? Allora, il mercato in generale che diventa sempre più smartphone, questa è la prima considerazione, no? Quindi se guardi alla crescita degli smartphone, che è stata fortissima, è stata quasi del 50% rispetto all'anno precedente, ti fa vedere ancora quanti utenti stanno migrando, se vuoi, dal telefonino tradizionale allo smartphone. Questa come prima cosa. Come mercato totale, abbiamo visto un miglioramento nel terzo trimestre. La prima metà dell'anno è stata molto debole. Alla fine il consumatore non trovava abbastanza incentivi a fare quel balzo, no, di rimpiazzare il telefonino che avevano con qualcosa di nuovo. Con l'arrivo dell'iPhone 5, con più presenza e anche prezzi inferiori sul mercato del Galaxy S3, abbiamo visto un attimino più di interesse in questo replacement cycle dei telefoni. Secondo me quello che sarà interessante è vedere poi le dinamiche, come facciamo vedere, c'è Samsung e Apple e poi ci sono tutti gli altri. La realtà è che o compri l'iPhone, o se vuoi l'alternativa all'iPhone oggi è Samsung. Non ci sembra che ci sia nessun altro che riesce accattivare così il consumatore. E ti dirò di più, non è neanche Samsung in generale, è Galaxy, che sarà interessante vedere quando arriverà il telefono su Windows Phone 8, che si chiama TVS, se Samsung riuscirà a mettere una nuova brand sul mercato, no? Una famiglia di prodotti che Galaxy è diventata adesso... così, diciamo, il punto di riferimento dell'Android smartphone. Una componente innovativa del mercato è l'arrivo dei nuovi terminali con Windows Phone a partire da Nokia. Per capire la risposta del mercato di fronte a questi nuovi prodotti dovremmo aspettare il prossimo anno? No, già dal quarto trimestre dovremmo vedere dal punto di vista di Windows Phone 8 già come vanno le cose. Il terzo trimestre ovviamente aveva ancora i Lumia devices che vendevano, ma basati su 7.5 e poi l'upgrade a 7.8, non è, diciamo, il sistema operativo che sarà poi portato al futuro, che è appunto 8. 8 arriva adesso, arriva in questi giorni. Iniziato a vendere in America la settimana scorsa e in altri mercati europei. Quindi già dal quarto trimestre, secondo me, tra Nokia e HTC con i due nuovi telefoni che hanno lanciato su Windows Phone, già ti darà un'idea se il mercato è pronto ad avere questo terzo ecosistema di cui stiamo parlando da un po'. Se guardiamo ai sistemi operativi, Android cresce ancora tantissimo e ha raggiunto una quota di mercato del 72,4%, iOS, quindi Apple, di fatto un solo telefono, cioè l'iPhone, ha una quota di quasi il 14%, 13,9%, e poi RIM, Research in Motion, che praticamente dimezza la propria fetta di mercato al 5,3%, Bada, che è il sistema di Samsung, al 3%, Symbian sceso, pensate, dal 16,9% al 17% al 2,6%, e Microsoft con un 2,4%. La forza di Android è dovuta soprattutto ed essenzialmente al prezzo dei terminali, perché oramai si trovano terminali Android a meno di 100 euro, 100 dollari. Il prezzo è senz'altro la componente principale in questa ascesa, non soltanto nei mercati maturi, dove vedi comunque alla fine che il consumatore sta più sulla fascia medio-alta, ma più importante i mercati emergenti, dove vediamo, noi abbiamo già parlato in trasmissione in passato dei famosi white box, no? Di questi venditori cinesi che non hanno una marca ben riconosciuta nei paesi, ma che vendono adesso telefonini che sono passati dal telefono come feature phone al telefono Android. E quindi, se guardi la componente di tutta la fascia del mercato Android, Cina come mercato è la componente più grande di questo volume che tu hai citato. Adesso abbiamo commentato un mercato di telefonini e smartphone, ma se ampliamo lo sguardo anche al mondo dei tablet, a quelli che definivamo all'inizio della trasmissione smart devices, quindi terminali mobili che si connettono ad internet, che Natale vi aspettate? Ma ci aspettiamo un Natale un pochino diverso dal solito per quanto riguarda i telefoni, nel senso che Natale è sempre stato il quarto trimestre è sempre stato il trimestre più grande per la telefonia mobile e rimarrà ancora quello. Però, mentre negli altri anni vedevi chiaramente che i consumatori spingevano diciamo il rimpiazzo del telefono, se magari anche avevi un contratto di 2 anni, l'operatore ti aiutava a rimpiazzare il telefono magari 6 mesi prima, perché c'erano questi tutti i nuovi telefoni. In realtà quest'anno sì, abbiamo l'iPhone 5 e abbiamo i telefoni Windows. Prima di tutto sul telefono Windows sono nuovi, sono dei bei telefoni, ma c'è questa incognita del per il consumatore saranno interessanti o no. Riuscirà il consumatore a cambiare questa idea che Windows vuol dire business e quindi che Windows magari è sexy e è diverso e lo voglio comprare. Quindi vedremo come la dinamica sarà lì. Ma la realtà è che c'è tantissimo, come dicevi tu, tantissima attenzione sui tablet quest'anno, e è 3 anni che ci diciamo quest'anno sarà il Natale dei tablet, ma per me il 2012 sarà sì il Natale dei tablet. Come consumatore guardi a dei costi molto più bassi rispetto agli anni precedenti. Hai i tablet, il Nexus 7 di Google a $199, hai l'iPad mini che arriva sul mercato a $329 come prezzo iniziale. Quindi c'è un più un mass market appeal per quanto riguarda i tablet, e non c'è l'extra costo dei dati. Sono devices che possono essere sia wifi che con banda cellulare, e quindi per il consumatore, se vuoi, è un costo più finalizzato. So quello che spendo, lo spendo al momento e la cosa finisce lì, e non mi lego a un altro contratto di 2 anni. Adesso ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade, riprendiamo tra poco. 2024. Siamo collegati con Carolina Milanesi dalla California via Skype per parlare del mercato che oramai abbiamo definito degli smart devices, quindi smartphone e tablet. Sarà sicuramente interessante vedere il quarto trimestre, quindi ne parleremo all'inizio del prossimo anno, per capire che tipo di performance hanno avuto iPhone, stanno avendo iPhone 5 e anche Nokia con i nuovi Windows Phone. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta oggi. Parleremo nella seconda parte di supercalcolo, di grandi computer, di high performance computing, un argomento sicuramente molto affascinante, ma che è legato anche alla nostra vita. Numero verde 800 24 00 24. Se volete scriverci un SMS 349 238 6666, potete anche utilizzare la nostra pagina Facebook, potete lasciare un messaggio nella nostra pagina, oppure anche Twitter @Pagliarini. Allora, ultima domanda per Carolina Milanesi, visto che tu hai uno sguardo globale, parli spesso con i top manager delle aziende che producono questi smart devices in tutto il mondo. Uno degli argomenti di cui si parla molto ultimamente è se Apple ha raggiunto l'apice, quindi ormai la curva è in discesa, oppure no. Come la vedi tu? Guarda, se partiamo dall'iPad mini, secondo me è un buon punto per capire dove sta andando poi l'azienda. L'iPad mini è un'estensione della linea, no? E quindi permette ad Apple di arrivare a dei clienti che altrimenti non avrebbero potuto raggiungere con l'iPad originale, perché c'è un interesse per questo tipo di form factor, che tendono a precisare che è un 7.9, non un 7, che fa un po' di differenza, ma poi in realtà il consumatore non è che presta così tanta attenzione. Ma non puoi aspettarti da un prodotto che è praticamente lo stesso prodotto ma più piccolo, la stessa linea, la stessa eccitazione, la stessa euforia che il primo prodotto ha portato, un prodotto che era totalmente rivoluzionario, che stava tra il telefono e il PC. Quindi sotto questo punto di vista, secondo noi, le cose stanno andando come ce le aspettavamo. Il ruolo che noi vediamo dell'iPad mini è di senz'altro un companion device, no? Un device che tu prendi insieme a qualcos'altro. Può essere un companion device dei tablet che le aziende stanno pensando di dare ai propri dipendenti, che avrà un Windows 8 come sistema operativo e magari un ecosistema di applicazioni non così ricco per il consumatore. E quindi hai questa dicotomia dove dici: la realtà è che come consumatore non avrò un device. Tanti anni fa, 3-4 anni fa, parlavamo del famoso Swiss Army Knife, no? Questo device che diventava come il coltello, quello svizzero che ha tutte le varie funzioni. Realtà è che i consumatori non stanno andando verso questa tendenza, ma una tendenza ad avere almeno 2 device. Il telefono, che non andrà mai via, magari cambierà forma, ma sarà sempre con il consumatore, e qualcos'altro. Quel qualcos'altro sembra che sia il tablet, ma poi il tablet può avere tante dimensioni, no? Cioè quello piccolo, quello medio, quello grande, il sistema operativo diverso, lo usi più per lavoro o per divertimento, ma senz'altro è questa idea. E secondo me alla fine per Apple non è tanto il market share dei device singoli che vogliono aumentare, ma è il numero dei devices che ogni casa ha, perché più devices tu hai, più sei legato all'ecosistema, più consumi contenuto e servizi che Apple ti dà. Vendere a più persone l'iPhone e fermarsi lì e per fare quello devi diminuire il costo dell'iPhone, non credo che alla fine interessi più di tanto ad Apple. Digital News. Abbiamo alcune notizie della settimana. Disponibile da pochi giorni la versione italiana del canale di video musicali più grande al mondo, si chiama Vivo, scritto Vevo. Molti video erano già disponibili su YouTube per il pubblico italiano, molti lo conoscono, ma adesso c'è la versione ufficiale tutta italiana. Vivo è una joint venture tra Sony Music, Universal Music e Abu Dhabi Media. Il software aggiornato è sinonimo di sicurezza. Quante volte l'abbiamo detto? Uno dei modi più facili per beccare un virus è non avere un browser aggiornato. Allora, secondo Casper, ben il 23% degli utenti non utilizza le ultime versioni dei browser. Kaspersky ha analizzato Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera e Safari su sistemi operativi Windows per un totale di 36 diverse versioni. Dopo aver preso una multa da 900.000 euro dall'antitrust italiano, Apple ha adeguato la comunicazione relativa alla garanzia europea sul proprio sito web di vendita, cioè l'Apple Store. La mancata comunicazione corretta faceva pensare a molti consumatori che sui prodotti Apple non ci fossero 2 anni di garanzia. Ricordiamo che i 2 anni devono essere riconosciuti dal rivenditore su tutti i prodotti acquistati. Stiamo seguendo gli annunci di Kim.com, che dopo essere stato arrestato e costretto a chiudere Mega Upload ha annunciato l'arrivo di un nuovo sito, e ne parliamo tra pochi minuti qui a 2024. Quindi noi ci risentiamo tra poco, dopo le notizie di GR24. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprende questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro numero verde per chiamarci in diretta è 800240024. Saluto Edmondo Orlotti che si occupa di High Performance Computing, poi spieghiamo di che cosa si tratta, per Nvidia in Sud Europa. Bentornato a 2024. Grazie, ciao Enrico e buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, tu sei appena tornato da una mega conferenza che c'è stata negli Stati Uniti a Salt Lake, che si è occupata di che cosa? Si occupa di supercomputing, ovvero di sistemi di calcolo ad alte prestazioni. I grandi cervelloni, le grandi macchine che stanno nascoste e che servono ad aiutare la ricerca. Sì, e in qualche modo poi queste cose sono collegate anche alla nostra vita, perché alcune di queste macchine poi servono anche per erogare servizi o per progettare servizi che noi utilizziamo. Diciamo che sono un tassello fondamentale per lo sviluppo delle tecnologie e della qualità anche della vita delle persone. Allora, tra poco noi parleremo di supercomputing con alcuni esempi e anche altri ospiti. Adesso però vogliamo, per capire che cosa sta avvenendo in una parte importante del mondo, parliamo di tecnologia e di sistemi antimissile e antirazzo. Molti di voi sapranno, ascoltando i nostri giornali radio, che negli ultimi giorni sono caduti alcuni razzi sparati dalla striscia di Gaza in territorio israeliano. Per la prima volta questi razzi sono caduti vicino a 2 città importanti, Tel Aviv e Gerusalemme. A questo punto uno potrebbe domandarsi, io me lo sono domandato, come mai in uno dei paesi tecnologicamente più avanzati del mondo e dopo 30 anni in cui si parla di sistemi antimissile non si è in grado di intercettare un proiettile che arriva da chilometri di distanza? Non si è in grado o li si lascia passare questi razzi? Beh, importante, noi naturalmente ne parliamo dal punto di vista tecnologico, anche perché l'Italia in questo ambito ha un ruolo importante, perché noi produciamo tecnologie di questo genere, probabilmente quelle israeliane sono tutte costruite là. Riccardo Ferretti, direttore della rivista Panorama Difesa, benvenuto. Salve. Partiamo proprio da qua, stiamo parlando di sistemi di che tipo? Antimissile, antirazzo, ci spieghi la differenza? Ma allora, diciamo che attualmente i sistemi che sta impiegando Israele per difendersi dai razzi lanciati appunto dalla striscia di Gaza sono proprio sistemi specificamente disegnati per difendere il paese dai razzi e dai proiettili di artiglieria. Quindi la differenza è sostanziale, perché un sistema antimissile è molto più complesso, diciamo, è un livello superiore, infatti deve intercettare bersagli che, sebbene hanno una traiettoria balistica come missili balistici intercontinentali eccetera, sono molto molto veloci in molti casi devono essere intercettati addirittura fuori dall'atmosfera e quindi richiedono sistemi di raggi molto potenti, sistemi di intercettazione radar molto più avanzati. Però questi sistemi antiraggio, diciamo, sono il cugino economico della versione antimissile, ma il principio è lo stesso, quindi loro sono dei sistemi in grado di rilevare il lancio, generalmente impiegando un radar, rilevare il lancio, valutare la traiettoria e colpirlo con un missile. Un missile comunque deve fare un bel lavoro, perché si tratta di colpire comunque un bersaglio molto piccolo e molto veloce. Sì. Mi sembra di capire, dalle chiacchierate, dalle cose che ho letto in questi giorni, che è quasi più facile intercettare un missile, perché ha una traiettoria molto, molto lunga, ci si può mettere anche un po' più di tempo, rispetto ad un razzo che è sostanzialmente una sorta di petardone che non si sa nemmeno da dove arriva ed è un po' più difficile da intercettare. È così? Beh, diciamo che sì, da un punto di vista almeno teorico, siccome si mettono in campo dei sistemi di altro livello, il missile balistico comunque va molto veloce, ma dà più tempo per poter pianificare il sistema di intercettazione. Un antirazzo deve essere veramente immediato, perché il razzo viaggia più lentamente, ma è sparato da distanze molto più brevi. E quindi, per esempio, il sistema che usa Israele è molto efficace contro i razzi lanciati a distanze superiori ai 15 km, ma i razzi lanciati a distanze inferiori possono anche riuscire a passare, perché il sistema non riesce a attivarsi in tempo per riuscire a colpire il razzo prima che cada. Sì, che abbiamo citato la tecnologia radar. Tecnologicamente parlando, è l'unica cosa che serve per intercettare un razzo o un missile? No, allora diciamo, prendiamo per esempio il sistema che usano gli israeliani, è basato su quattro elementi sostanzialmente. Uno che è il radar, che ha una funzione importantissima, perché deve scoprire il lancio e tracciare il bersaglio, cioè il razzo deve essere sempre monitorato e le informazioni relative alla posizione del razzo devono essere trasferite sempre al sistema di controllo che gestisce tutta la batteria e che decide per esempio quale lanciatore utilizzare in base a seconda della traiettoria di provenienza del razzo, e lanciare il missile, guidare il missile fin tanto che questo, con il proprio seeker, che è un'altra tecnologia, praticamente è un sensore che è sulla testa del missile, in questo caso è un sensore elettro-ottico, ma può essere benissimo un altro radar più piccolo, da solo aggancia il bersaglio e lo segue e lo colpisce. Quindi diciamo, la tecnologia radar è la base di tutto ciò. Comunque è molto importante anche la tecnologia, ad esempio, della propulsione, perché per questi sistemi qua servono razzi che raggiungano subito la velocità e siano rapidamente in grado di manovrare. Per un sistema antimissile, ad esempio, servono dei razzi che spingono proprio questi missili, sufficienti a portarli addirittura nello spazio, sì, dove di solito viene l'intercetto, che può essere addirittura in questo caso per impatto diretto, quindi non con una testata esplosiva che distrugge il bersaglio colpendolo con dei frammenti, ma direttamente colpendo con il missile in sé, cioè missile, sì, contro la testata. Ferretti, perché questi razzi sparati da Gaza riescono a cadere? Cioè il sistema Iron Dome, che è quello che usano gli israeliani per difendersi, quindi che percentuale di successo ha? Ma allora, bisogna stare molto attenti quando si dice che il sistema ha fallito, perché spesso fallisce, tra virgolette, nel senso che lascia appositamente passare questi razzi. Il motivo è semplice, un missile Tamir, che è quello impiegato dal sistema Iron Dome, costa diciamo dai 50.000 ai $70.000, quindi è molto importante lanciarli soltanto quando è veramente necessario. Quindi il sistema Iron Dome ha un software molto avanzato che permette di valutare per ogni singolo razzo lanciato quella che sarà la traiettoria finale, cioè esattamente dove andrà a colpire. Quindi se il razzo si vede che andrà a colpire una zona disabitata, il sistema automaticamente lo ignora, cioè lo considera come una minaccia minore, quindi da non considerare, e concentra invece i missili solo contro i razzi che rischiano di cadere effettivamente in zona abitata e quindi di fare effettivamente danni. Contro questi missili, cioè i missili veramente ingaggiati contro i quali è stato lanciato un missile di Iron Dome, il risultato percentuale di efficacia è di circa 85%, quindi diciamo molto buono. Questi sistemi sono i più avanzati nel mondo? Ma diciamo più che più avanzata è un sistema abbastanza unico, è il primo effettivamente operativo. È stato sviluppato dalla Rafael in tempo veramente record, che ci hanno messo poco più di un anno, una cosa incredibile. Il progetto è stato lanciato dopo la pioggia di razzi Katyusha lanciati da Hezbollah nel 2006, quindi è stato lanciato questo progetto d'urgenza per il quale sono stati spesi già 1.250.000.000 di dollari. E in pochissimo tempo, a aprile, c'è stato il primo reale intercetto della prima batteria, ne erano state dispiegate due. E attualmente ne sono operative già 5, una è entrata proprio in questi giorni in servizio. Quindi è un ottimo sistema, è una tecnologia sviluppata in modo abbastanza segreto agli israeliani, che la tengono molto ovviamente, cara. Certo. Però non è niente di particolarmente innovativo, diciamo hanno fatto un ottimo collage delle tecnologie che già disponevano. Ferretti, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie. Riccardo Ferretti è direttore della rivista Panorama Difesa. Sono le 16:16 minuti, tra poco parliamo di high performance computing, di super calcolatori a 2024. Oggi cercheremo di capire quanto sono importanti, perché sono importanti, e soprattutto che cosa servono i super computer. Edmondo Orlotti, che abbiamo conosciuto poco fa, è, come dicevo, appena tornato da una conferenza che si chiamava, Edmondo, proprio Supercomputing Conference, quindi molto chiaro, molto semplice, a Salt Lake. Tanto per capire il giro che c'è attorno a questo tema, quante persone ci hanno partecipato? C'erano circa tra 10.000 e 15.000 persone da tutto il mondo. E stiamo parlando di non solo persone che si occupano di ricerca, anche di business. Anche il business, supercomputing è l'evento principale di tutto questo settore che coinvolge dalle istituzioni governative fino all'azienda privata. Allora, durante questa conferenza è stato presentato, annunciato ufficialmente, perché naturalmente tra gli addetti ai lavori lo si sapeva già, un mega computer, ne parleremo brevemente perché le dimensioni sono impressionanti, che si chiama Titano. In italiano. Ogni sei mesi viene stilata una classifica dei supercomputer più potenti al mondo e Titan è il nuovo campione delle prestazioni. Titan lo abbiamo presentato anche in queste righe. Titan è il nuovo supercomputer che rimette gli Stati Uniti alla guida della classifica dei 500 sistemi più potenti al mondo. The Department of Energy has flipped the switch on what is now the world's most powerful supercomputer. Si trova in un laboratorio scientifico ad Oak Ridge, nel Tennessee, e secondo una stima del 2011 è costato 97 milioni di dollari. Le dimensioni di Titan sono impressionanti. Occupa un edificio di 400 metri quadri e i suoi chip sono contenuti in 200 armadi. Anche il consumo energetico è da primato, 8,2 megawatt. Titan System is now live. Titan ha una memoria di 710 terabyte e una capacità di archiviare dati da 10 petabyte. Allora, alcuni potrebbero non sapere che esistono i petabyte, che sono parenti superiori dei megabyte, dei gigabyte, eccetera, eccetera. Ma Edmondo, quanto è potente questa macchina? Poi volevo anche capire se stiamo parlando di cioè un supercomputer, è sostanzialmente fatto come un computer più grosso, oppure invece fatto in un altro modo. Dunque, quanto è potente? Allora, quanto è potente? Ha una potenza di picco di oltre 20 petaflop. Che uno dice che cosa vuol cosa dire? Sono. I flop sarebbero le operazioni di calcolo semplice che io posso fare con la calcolatrice, ad esempio, di numeri decimali, e Titan è in grado di fare 20 milioni di miliardi di queste operazioni al secondo. È un numero ovviamente che non si riesce a comprendere, certo. Avere un computer di questo genere per un paese significa non solo stare in testa alla classifica, ma ha un significato che va al di là, perché poi con questo sistema si fanno ricerche, fanno le ricerche le aziende, gli istituti di ricerca, quindi che rapporto c'è tra supercomputer e competitività, potenza di un paese, proprio di un sistema paese? Il rapporto è diretto. Per molti paesi il supercomputing rappresenta un tassello fondamentale della capacità di rimanere in un contesto di ricerca indipendente. Teniamo presente che questi sistemi di supercalcolo sono fondamentali ormai in molte discipline, in molti ambiti della ricerca. Quindi se io voglio portare avanti la mia ricerca e attraverso la ricerca fare innovazione e quindi creare una ricaduta all'interno del mio paese, ho bisogno di questo tipo di infrastrutture. Anche perché mi sembra di capire che almeno per un certo tipo di ricerche non è che gli Stati Uniti concedono la capacità di calcolo ad altri paesi, se la tengono per sé. Assolutamente, assolutamente. Gli Stati Uniti, che per inciso hanno la metà dei computer che sono nella top 500 rispetto a tutto il mondo, hanno la metà di questi computer, gli Stati Uniti si tengono buona parte dei risultati di questa ricerca. Titan in questo senso fa un po' eccezione, nel senso che una parte delle ore di calcolo a disposizione di Titan sono a disposizione della comunità internazionale della ricerca, con anche progetti italiani che accederanno a Titan, però è chiaro che la maggioranza di questo sistema sarà dedicata a ricerca che migliorerà la competitività degli Stati Uniti. Sì, diciamo che poi tutto ciò si traduce in definitiva anche negli oggetti che noi compriamo. Ad esempio, noi parliamo nel 2024 spesso di smartphone, di tablet. Alcune delle ricerche che vengono fatte all'interno di un paese per poi sviluppare anche questo tipo di tecnologia arriva da lì. Assolutamente. Quindi c'è un rapporto. C'è un rapporto diretto. Pensiamo ad esempio alle batterie in senso generale. Io voglio avere un telefonino che abbia una batteria che duri più di un giorno con i nuovi dispositivi. La chimica che va studiata per migliorare l'efficienza delle batterie passa attraverso simulazioni estremamente complesse sui sistemi, su questi sistemi di supercalcolo. Diciamo, un sistema di supercalcolo serve, adesso traduco un po' brutalmente, serve fondamentalmente per fare delle simulazioni di cose che in realtà richiederebbero o troppi soldi o troppo tempo o forse sono o forse sarebbero anche infattibili. Impossibili. Io per esempio, se devo studiare dei nuovi materiali, voglio studiare una nuova composizione della batteria, devo studiare delle associazioni di molecole differenti e devo provare miliardi di combinazioni. Questo è un approccio alla simulazione che si va in contrasto rispetto, non è in contrasto, è complementare a quello che io posso fare con la ricerca sperimentale. Però la ricerca sperimentale ha il limite fisico di dover fare le cose. Le tecnologie per costruire queste macchine gigantesche sono, ricordiamo che Titan è costato praticamente 100 milioni di dollari, cioè una bestia incredibile. Sì, sono quasi tutte americane? Le tecnologie sono quasi tutte americane, sì, sono essenzialmente americane. Quello che è interessante è che negli anni, soprattutto negli ultimi 15 anni, si è passati da sistemi di supercalcolo che erano costruiti solo per fare supercalcolo a sistemi di supercalcolo di oggi che invece utilizzano componenti che fanno parte del mercato di tutti i giorni. In particolare in Titan ci sono dei chip, che sono i chip che noi produciamo, che sono gli stessi chip utilizzati per le schede grafiche dei videogiochi. Quindi diciamo la tecnologia... Che sono così potenti che messi in fila in tanti, quanti ce ne sono? Ce ne sono più di 18.000. Così. Quindi ci sono 18.000 GPU, quindi sono unità grafiche, chip grafici. Sì. E quanti chip tradizionali? E le CPU sono altrettante. Le CPU, che sono CPU x86, sono altrettante, cioè una CPU e una GPU. La GPU fornisce il 90% della potenza di calcolo di questo sistema. La cosa che appunto è interessante è che questo stesso chip che è su Titan tra pochi mesi sarà disponibile anche sul mercato per farci giocare i nostri ragazzi. Sì, sì, magari anche in tablet o smartphone, eccetera, eccetera. Un'altra cosa importante e interessante, che in qualche modo poi si lega anche al mondo di cui ogni tanto parliamo, del cloud computing, è che questi sistemi possono essere utilizzati a distanza. Spiego e vediamo se ho capito. Cioè io posso, se anche solo un'azienda, e magari, che ne so, le grandi aziende, la Apple, Microsoft, utilizzano anche questi servizi in remoto, posso affittare capacità di calcolo, comprare ore di calcolo a chili, diciamo così, esatto, e utilizzare il supercomputer. Esatto. Anzi, solitamente queste macchine sono accessibili fisicamente a pochi. La stragrande maggioranza degli utenti ci accede da remoto, carica i propri dati, prende appunto queste ore di calcolo e poi esamina i risultati. Sì. Ci siamo fatti una domanda. La potenza di un supercomputer può essere e come messa a disposizione anche del mondo industriale piccolo, quello italiano, delle piccole medie imprese italiane. Allora, ecco che cosa si sta facendo a Trieste. Exact Lab è uno spin-off del CNR. Uno dei fondatori è Stefano Cozzini, un ricercatore del CNR che lavora alla SISA di Trieste, molto nota, ed ha una lunga esperienza di supercalcolatori. Ma dunque, l'idea che sta sotto Exact Lab, che è un'idea appunto che nasce dalla nostra esperienza in high performance computing dedicato esplicitamente al mondo della ricerca, è quella di provare a spostare le nostre competenze al mondo industriale italiano, in particolare sulla piccola e media industria, con la convinzione che iniziare ad utilizzare lo strumento del supercalcolo, del calcolo ad alte prestazioni nella piccola e media industria può dare dei vantaggi competitivi piuttosto interessanti. E quindi su questo noi da un anno stiamo provando a coinvolgere la piccola e media industria in progetti di supercalcolo dove lo strumento del supercalcolo aiuta a fare innovazione e soprattutto a ridurre i tempi di sviluppo di nuovi progetti e nuovi prodotti. Senta, per fare questo è necessario costruire un nuovo supercalcolatore o è possibile utilizzare quelli che ci sono in Italia, ad esempio quello del Cineca? Ci sono varie possibilità, sicuramente l'offerta di supercalcolo data dal centro Cineca è assolutamente di qualità enorme, quindi sarebbe auspicabile l'utilizzo di queste piattaforme. È chiaro che per le piccole e medie industrie l'approccio può essere un po' troppo difficile, nel senso che c'è una barriera di formazione che potrebbe scoraggiare i più. Però per ovviare a queste problematiche, quello che si può pensare è di promuovere dei servizi avanzati di supercalcolo attraverso piattaforme cloud che si interfaccino, ad esempio, su piattaforme HPC di media dimensione. E su questo noi stiamo di fatto lavorando. Quindi potremmo inserire l'offerta di supercalcolo all'interno dei tanti servizi del cloud computing, in the cloud. Esattamente, questa è proprio una delle nostre idee, una di quelle su cui noi stiamo lavorando e sulla quale stiamo puntando molto. L'idea è proprio che il cloud in qualche maniera alleggerisce, no? E rende un po' trasparente la difficoltà di utilizzare un supercomputer e che però in ogni caso il supercomputer è a disposizione e quindi la potenza di calcolo necessaria per fare alcune cose viene fornita proprio da questa tecnologia HPC. E in questo modo uno potrebbe aiutare e permettere l'utilizzo di questi strumenti in maniera più facile, perlomeno all'inizio del problema. Nel momento in cui si cerca di affrontare il problema, uno può pensare che una soluzione cloud HPC possa essere la soluzione giusta. Questa è una soluzione, un servizio che voi pensate soprattutto per le piccole e medie imprese, perché immagino che le grandi imprese utilizzino già magari internamente o abbiano già degli accordi con i grandi centri di supercalcolo per fare progettazione utilizzando supercomputer. Sì, esattamente, quello che succede è che le grandi industrie, ad esempio mi penso all'industria farmaceutica, hanno tutte le loro risorse di calcolo già in casa perché hanno la possibilità. L'industria farmaceutica fa molto uso delle risorse di calcolo per abbassare i tempi di progettazione dei farmaci, ovviamente, no? Attraverso simulazioni. Queste hanno grandi risorse di calcolo, grandi disponibilità economiche anche, e quindi se le costruiscono in casa oppure accedono direttamente ai grandi centri di supercalcolo internazionali. Noi ci stiamo più che altro riferendo alla piccola media industria, nella quale un'infrastruttura di calcolo, per piccola che sia all'inizio, è sempre costosa, è sempre difficile da mantenere perché richiede personale specializzato e così via. Un'offerta attraverso il paradigma del cloud computing potrebbe aiutarli ad utilizzare, ad entrare in contatto con questa possibilità, vagliarla attentamente a costi molto limitati e dopodiché decidere di conseguenza se mettersela in casa, continuare a utilizzarla attraverso la piattaforma di cloud oppure andare verso un centro di supercalcolo come Cineca o altri. Ci fa un esempio di che cosa si potrebbe pensare di fare? Ma dunque, noi quello che stiamo pensando di fare, ad esempio, vedendo un po' le iniziative che hanno fatto negli Stati Uniti, ad esempio ci stiamo riferendo a Trek. Trek è un produttore di biciclette degli Stati Uniti che ultimamente ha lanciato e ha fatto un annuncio sui giornali specializzati sul fatto che nel loro dipartimento di ricerca e sviluppo hanno iniziato a usare la fluidodinamica computazionale per la progettazione delle loro biciclette, per validare le loro biciclette e le ruote di bicicletta. In Italia la produzione di biciclette è uno dei fiore all'occhiello, abbiamo enormi produttori di tipo artigianale che fanno biciclette di altissima qualità. Noi pensiamo che questo potrebbe essere un mercato di grande interesse, potrebbe essere un esempio di piccola e media industria nel manifatturiero italiano, in cui l'Italia eccelle, che potrebbe beneficiare tantissimo di un approccio, e di un utilizzo del supercalcolo. Questo naturalmente è un esempio, poi può essere poi declinato per tanti produttori di altro tipo, non solo le biciclette. Sì, esattamente, noi abbiamo visto questo delle biciclette, ma ce ne sono tantissimi altri esempi. Noi per esempio stiamo sviluppando attraverso un progetto regionale finanziatoci un progetto di ricerca industriale finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, una piattaforma cloud per la valutazione del rischio sismico. Ce ne sono molti di esempi e ce ne sono molte di applicazioni, e noi stiamo cercando di verificare la possibilità di utilizzare il supercalcolo proprio per aiutare le piccole e medie industrie in quest'ottica. Daniele Conti è il presidente della SECO, benvenuto a 2024. Buonasera, grazie. Conti, l'abbiamo collegato via Skype. Possiamo dire che voi avete, poi lo spieghiamo per bene, realizzato un supercomputer economico? Sì, in effetti è vero. Diciamo che noi abbiamo avuto l'idea di utilizzare praticamente quelli che sono i processori normalmente utilizzati nei comuni tablet, nei comuni cellulari, che oramai hanno raggiunto delle performance veramente molto elevate, ma con dei consumi ovviamente ottimizzati dal punto di vista di power consumption. Unendo queste architetture, che oramai sono visibili a tutti quanti, le abbiamo integrate poi, come diceva giustamente Edmondo, con architetture NVIDIA, quindi con delle GPU, sfruttando il calcolo computazionale delle GPU, ma con i bassi consumi e con le performance dettati da, appunto, di queste nuove architetture. Quindi abbiamo preso praticamente un'architettura di NVIDIA che si chiama Tegra T30, che è utilizzato nei più comuni tablet attualmente sul mercato. Abbiamo fatto una piattaforma che si linka tramite un bus ad alte prestazioni, che si chiama PCI Express, a un'architettura grafica, una GPU, al cui interno ci sono 96 core. Per fare un supercomputer, diciamo, in miniatura, e sicuramente il problema del consumo che Conti ci ha citato è uno dei problemi che deve essere risolto. Ci risentiamo dopo la pubblicità. 2024. Le 16:36 minuti, questo è 2024, il nostro numero verde 800240024. Certo che magari non vi viene in mente una domanda sui supercomputer, che è un argomento molto interessante, importante per il sistema paese. Dunque, poco prima del GR vi ho detto di Kim.com, che aveva annunciato l'arrivo di Mega condominio del Gabon. Allora, dopo che le autorità del Gabon, dello Stato africano, hanno detto no, qui non ci fai un bel niente con i tuoi sistemi, lui, sapete, era quello che è stato arrestato per Mega Upload. Allora, ha annunciato che in gennaio arriverà mega.co.nz, quindi un sito dalla Nuova Zelanda. La cosa la stiamo seguendo, è importante, perché lui dice metterò insieme tecnologie inattaccabili, visto che l'FBI per adesso invece lo ha attaccato per bene, lo hanno arrestato e adesso ne chiedono l'estradizione negli Stati Uniti. Allora, una risposta a Ilaria, che ci chiede quanto consuma Titan, questo mega computer degli Stati Uniti. 8,2 megawatt, lo abbiamo detto nella nostra scheda. Una precisazione anche da un ascoltatore che non ha ben capito, ma magari noi non ci siamo spiegati bene, cioè dice Israele fa passare i razzi per apparire vittima. No, non è così, è che visto che i sistemi antirazzo costano un sacco di soldi, 50-70 mila dollari l'uno, se un razzo che viene individuato si capisce, e lo si capisce in pochissimi secondi, i sistemi automatici lo capiscono in pochi secondi, si capisce che cade nel deserto, beh, inutile sprecare un razzo di questo costo per difendersi. Altro conto invece se questo razzo è indirizzato sulle case. Potete riascoltarci anche in podcast se vi siete persi alcuni punti. Allora, abbiamo detto che a proposito di supercomputer, già il consumo del nostro tablet o del nostro smartphone è un problema, figuriamoci per un computer, per un supercomputer che consuma 8,2 megawatt di energia. Edmondo, bisogna farci una centrale elettrica di fianco. Sì, diciamo che i supercomputer più grossi nascono accanto alle centrali elettriche, e Titan infatti non fa eccezione. Da questo punto di vista si prevede che da qui al 2020 il maggiore sforzo tecnologico verrà fatto non tanto dal punto di vista prestazionale in sé, cioè avere computer più potenti, ma soprattutto dal punto di vista dei consumi. Pensiamo che già Titan va in quella direzione, perché consuma sì 8,2 megawatt, che sono è un sacco di energia, però è la stessa energia che veniva utilizzata per il sistema che c'era prima, che si chiamava Jaguar, che era però 10 volte meno potente. Quindi ho guadagnato 10 volte come potenza, ma ho mantenuto gli stessi consumi. Si parla di sistemi exascale per il 2020, cioè sistemi che saranno 50 volte più potenti di Titan, e si cerca, diciamo, le previsioni sono di stare in 30-40 megawatt, che sono comunque qualcosa che, se pensiamo per esempio all'Europa, farà sì che non saranno molti i paesi in grado di ospitare sistemi così grandi. Ecco, e qua capiamo quanto è importante il costo dell'energia per poi far funzionare sistemi come questo. Come siamo messi in Italia a proposito di supercomputer? Ma in Italia abbiamo il primo sistema italiano è al nono posto nella classifica della top 500. Quindi è nella top 10. Cineca di Bologna, giusto? Esatto. È nella top 10, quindi situazione considerevole. Domanda flash: che sistemi operativi hanno? Linux. Questo è diventato lo standard di fatto, sì, per quasi tutti i sistemi. Conti, il vostro computer è un computer, un super computer in miniatura che consuma poco, destinato a che tipo di mercato? Ma diciamo, i mercati possono essere quelli anche che hanno nominato prima Edmondo, quindi quello del calcolo computazionale applicato per esempio alla simulazione di virus in biologia, in medicina per l'analisi di immagini, per analisi sismografiche, per elaborare una grande mole di dati che sono quelle per esempio dell'analisi meteo, oppure per i data center che sono tipici del mondo di internet e di quello che ne consegue. Faccio un esempio: ci sono dei dati di Google che dicono che nel 2010 il data center e quindi la farm di Google ha consumato la bellezza di 2-3 miliardi di kilowattora, che è l'equivalente di circa 200.000 abitazioni, che se ci pensiamo un attimo è un numero veramente impressionante. Quindi il nostro computer, il nostro supercomputer, si adatta molto bene a poter andare anche in questi data center, perché le capacità di calcolo glielo permettono, sono sufficienti, ma il consumo è notevolmente più basso. Sì. Vorrei sottolineare, perché forse l'abbiamo fatto poco, che stiamo parlando di una innovazione fatta in Italia ed è unica a livello mondiale, e stiamo parlando di un supercomputer la cui essenza è il basso consumo, cioè naturalmente non è potente come il Titan, ci mancherebbe, o comunque anche la somma forse non diventa potente come il Titan, ma consuma molto meno. Ci dà un'idea di quanto è meno potente, ma di quanto consuma meno? Bah, diciamo che la potenza di un oggetto di questo genere siamo intorno ai, credo, gli 800 gigaflop, e la potenza consumata è un kilowatt. Quindi possiamo immaginare che le differenze di consumi sono effettivamente enormemente più basse. Sì, Edmondo, a conferma del fatto che dicevo, questa è un'innovazione fatta da un'azienda italiana a livello mondiale, alla Supercomputing Conference, non so se c'era proprio la fila davanti allo stand della Seco. C'era proprio la fila. Era nello stand di ARM, perché la tecnologia che viene utilizzata come CPU è basata su tecnologia ARM, quella che è più comune nei telefoni cellulari. In questo stand, effettivamente in questi 5 giorni della conferenza, c'era una fila costante di persone che volevano maggiori informazioni, tant'è che la maggioranza delle richieste poi arrivano, questo è anche abbastanza interessante, dal mercato americano, che è molto sensibile al dollaro, diciamo così, che viene speso in ambito energetico. Sì. Conti, questa sì. Cosa è stata fatta completamente in Italia? La cosa è completamente in Italia. Una cosa che tendo anche a sottolineare è che l'iniziativa, che inizialmente era nata da Seco, ha poi avuto una deriva molto importante, perché ci ha permesso la nascita di un'importante collaborazione con un'altra realtà italiana che è particolarmente vivace, un po' come noi, e che è Nel settore dei server, appunto, dei data center, che si chiama E4, che si trova a Reggio Emilia, e che è un classico esempio di quello che possono fare due piccole e medie imprese italiane se si uniscono insieme, si uniscono le proprie tecnologie e possono in questo modo affrontare anche la massa critica per andare anche su mercati che normalmente sono appannaggi di aziende che si chiamano IBM, Dell, Supermicro, HP. Quindi diciamo questo, siamo piuttosto orgogliosi di questo, abbiamo unito due realtà italiane per andare in un settore che in Italia in questo momento non c'era nessuno e che oggi diciamo potrebbe diventare invece il fiore all'occhiello delle nostre realtà. Senti, l'avete già cominciato a vendere? No, non ancora, diciamo che quello che abbiamo presentato sono i primi oggetti usciti dalla fabbrica, l'obiettivo è di cominciare a venderlo entro la fine del primo quadrimestre del 2013, quindi febbraio-marzo dell'anno prossimo. 2024. Giustamente alcuni nostri ascoltatori si domandano, cosa che avevo chiesto, cioè che mi sono domandato anche io, infatti ho inserito in scaletta, ma che cosa ci si può fare con questi supercomputer? Alcuni esempi per capire perché sono così importanti. Edmondo, che cosa ci si fa normalmente? Partirei dall'esempio che ci è più vicino probabilmente, quello delle previsioni meteorologiche. Ogni volta che noi guardiamo il bollettino meteorologico, quello è il risultato del calcolo fatto su un supercomputer. Ma più questo supercomputer è potente, più ho dati da poter analizzare e più accurata sarà la mia previsione meteorologica. Per chi ci fa caso, diciamo per i patiti della meteorologia, avrà visto che negli ultimi 10-15 anni le previsioni meteorologiche sono migliorate, la qualità delle previsioni meteo è migliorata. Questo è legato all'evoluzione in ambito del supercalcolo e dei modelli associati. E diciamo lo si può fare anche in questo caso in remoto, cioè io magari mi occupo di un modello però faccio fare i calcoli a qualcun altro. Assolutamente, questo è lo standard. In Italia ad esempio c'è il sistema meteorologico nazionale che fa la previsione per l'Italia, poi abbiamo le previsioni meteorologiche a livello regionale e qui ho le regioni che accedono a risorse di supercalcolo per fare una previsione più accurata a livello regionale. Mi piace molto questo concetto, cioè che io compro capacità di calcolo a chili e beh, a ore esatto, e la cosa bella è che nel giro di pochi anni, ma abbiamo sentito prima appunto Stefano Cozzini raccontarcelo, queste tecnologie saranno messe a disposizione delle piccole aziende e qui bisogna svegliarsi perché le tecnologie ci sono, basta utilizzarle perché sennò il paese declina, come si dice. Altri esempi? Prendiamo il settore manifatturiero citato prima, pensiamo al settore automobilistico, anche aeronautico, ma anche a chi progetta componenti, parti metalliche ad esempio, no? Io devo fare i miei test meccanici, crash test, pensiamo a quello alle automobili, quando vediamo quelle immagini di auto che vengono fatte schiantare contro una parete di cemento con i burattini all'interno e io voglio verificare che cosa succede eccetera, quelli sono test molto costosi e io devo farne tanti per poter raggiungere i livelli di sicurezza richiesti dagli standard. Utilizzando sistemi di calcolo, anziché fare il crash test fisico, io simulo il crash test all'interno del calcolatore. Questo ha consentito di migliorare notevolmente la sicurezza delle automobili e questo vale per tutte le progettazioni meccaniche. Io qualsiasi componente debba disegnare, faccio una simulazione del suo comportamento meccanico. Questo significa abbattere i costi di sviluppo e soprattutto le piccole e medie imprese che in Italia producono nel manifatturiero hanno un enorme vantaggio e queste applicazioni vanno anche in settori che magari non sono immediati come il legno, la produzione dei mobili. Anche in questo settore si usa supercalcolo per migliorare la qualità del prodotto, la qualità meccanica del prodotto. Sì. Conti, ci fa degli esempi anche lei su applicazioni che potrebbero andare bene per i computer, i super computer che voi, posso dire, producete o produrrete? Diciamo produrremo. Produrrete. Bene. Per essere corretti, sì. Produrremo. Per farci cosa, ad esempio, facciamo alcuni esempi. Prima ci ha fatto l'esempio dei data center di Google. La gestione dei data center, come le dicevo, è fondamentale. Noi oggi siamo abituati a utilizzare i nostri cellulari, i nostri tablet, i nostri computer, trasmettendo informazioni, dati, SMS, eccetera. Tutto dietro questo mondo ci sono poi i data center che utilizzano queste macchine, questi supercomputer per fare questo scambio di dati. Quindi è un mercato enorme che si può aprire in maniera pesante anche a macchine che consumano molto meno rispetto a quelle che sono le macchine attuali, perché spesso non è poi necessario avere una grande capacità di calcolo, come hanno gli attuali supercomputer, ma avere una buona flessibilità, una buona possibilità di calcolo computazionale, ma, come dicevamo prima, una grande possibilità di avere un risparmio energetico importante. Senta, a proposito di tecnologia, allora, lei ci ha citato le GPU di NVIDIA, tecnologia basata su ARM. Prima dicevo se questa tecnologia è molto americana e buona parte della tecnologia americana. Nei vostri computer che cosa c'è? Eh sì, utilizziamo tecnologia che prettamente è sviluppata negli Stati Uniti. Sono rari, sì. Non abbiamo detto, giustamente alcuni ci tirano le orecchie, come si chiama questo computer, se ha un nome o avrà un nome. Il nome del computer si chiama Karma Cluster. Karma Cluster. Karma Cluster, sì. Diciamo che il nome originale è venuto dal primo oggetto che è nato appunto dall'integrazione dello sviluppo nostro con NVIDIA, poi è stato definito il nome di Karma Kit, che poi è un kit di sviluppo che oramai è in giro da alcune settimane nelle più grandi università e nei centri di ricerca di tutto il mondo, che sfrutta questa tecnologia. Poi, come lo dicevo, da questo sviluppo iniziale sono nate delle sinergie importanti con l'azienda che le dicevo prima, che è appunto E4, sì, per far nascere da questo kit di sviluppo un vero prodotto da mettere sul mercato. Quanto costa? Ce lo può dire? Ma diciamo che in questo momento abbiamo un ordine di grandezza che dovrebbe essere intorno ai $25,000. Edmondo, è un prezzo buono, competitivo? È competitivo in funzione del numero di nodi che si riescono ad avere, quindi è competitivo a parità di consumo e potenza, è competitivo rispetto a quello che c'è oggi sul mercato. Stiamo parlando di un mercato potenziale enorme o di una nicchia di mercato? Stiamo parlando di un mercato potenziale enorme. Teniamo presente che oggi i data center, quelli che ci consentono di vivere questo mondo connesso attuale, sono il primo utilizzatore di energia elettrica al mondo. Viene consumata più energia elettrica di tutta quella che viene consumata in Italia solo per alimentare i data center. Quindi è un problema enorme dal punto di vista dei costi e della gestione, perché teniamo presente che molta di questa energia elettrica viene spesa per raffreddare questi chip. Questo significa, ad esempio, che si sta pensando di costruire grandi data center vicino al Polo Nord. Non si sa se poi magari faremo sciogliere i ghiacci, sì, per questo, sì, motivo. Infatti, no? Quando alcuni dicono, purtroppo il governo lo sta facendo, costruiamo i data center al sud Italia, uno dice ma... Bisogna verificare le condizioni, appunto, perché c'è anche chi costruisce, per esempio, un progetto in Sudafrica, un data center costruito all'interno di una caverna naturale. Questa potrebbe essere un'idea. Conti, noi oltre che farle i complimenti, le auguriamo in bocca al lupo. Grazie, Crepi. Daniele Conti è il presidente della SECO, questa società che appunto assieme a E4 realizzerà questo supercomputer in miniatura. Corretto dire supercomputer in miniatura, Edmondo? Sì, è corretto. Bene, io ringrazio anche Edmondo Orlotti che è stato con noi. Tu sei arrivato questa mattina dagli Stati Uniti, giusto? È questa mattina, sì. Da questa Super Computing Conference c'era molto, negli Stati Uniti immagino che la componente importante anche per l'utilizzo di queste risorse sia militare. C'è molta difesa, non a caso viene considerata tecnologia protetta dal punto di vista della difesa. Quindi la costruzione di questi supercomputer è anche controllata a livello strategico? È controllata a livello strategico, i siti sono cosiddetti classificati, quindi non è un accesso libero. Esistono poi anche i supercalcolatori utilizzati solo dai militari. Sì, ecco, a tal proposito, prima di chiudere, volevo capire se questa classifica che viene fatta dei 500 più grandi computer riesce effettivamente a fotografare la situazione, o i supercomputer segreti, cioè ce ne sono molti, perché nell'ambiente insomma si saprà se Israele ha un supercomputer che nessuno sa che esista. Israele non ha nessun computer sulla top 500, sarà questo vero? Non significa che non ne abbia, ma diciamo che senz'altro sistemi molto potenti in ambito militare non vanno assolutamente sulla top 500, perché ovviamente non si vuole fornire l'informazione di qual è la propria capacità in questo campo. Però si riesce insomma a costruire una cosa del genere senza essere intercettati magari nei sotterranei di qualche... Direi che si riesce anche molto bene. Molto bene, io ringrazio Edmondo Orlotti, che è responsabile del settore supercalcolo, si dice HPC, High Performance Computing, per NVIDIA in tutto il sud Europa, Turchia e Israele compreso. Esatto. Lo ringrazio e grazie per averci dedicato questa ora anche dopo un viaggio notturno dagli Stati Uniti all'Italia. Io ringrazio Filippo Aureggi che si è occupato della parte tecnica, Nadia Zammitti ed Anita Panizza che ci hanno aiutato in redazione. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile tra poco all'interno del podcast, del servizio podcast di Radio 24. La nostra email per comunicare con noi è 2024@radio24.it. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. La prossima settimana parleremo del mercato dell'elettronica di consumo e parleremo anche della crisi che stanno passando le aziende giapponesi e visto che buona parte della elettronica di consumo è arrivata e arriva dal Giappone, questo è comunque un problema per tutto il mercato. Appuntamento tra 7 giorni. 2024. 2024. 31 seconds.